Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Il capostazione fischiò e alzò la paletta, ma questa volta ero tranquillamente seduta in un comodo scompartimento. Dopo qualche ora lasciai l'Austria e la Cecoslovacchia si annunciò con sterminati boschi di betulle bianche. Ero felice, chissà cosa mi aspettava. Praga, 1976. Ciò che mi incuriosì subito alla stazione furono i soldati russi con le stelle rosse sulle mostrine. Ero a Praga, finalmente. Mi chiamo Maria Luisa e abito a Mestre. Sono un'insegnante e sono sposata con un figlio. Ammetto che nonostante io tutti i giorni dia la mail di questo programma, che voi siete qui, @radio24.it, e nonostante tutti i giorni continuano ad arrivare racconti che poi noi mettiamo, confezioniamo e su cui ci costruiamo una puntata per raccontare le vostre storie, io sono sempre stupito dalla capacità ricettiva di questa trasmissione. Domenica pomeriggio è successa una cosa abbastanza particolare. Io ero a casa e stavo più o meno guardando quello che tutti stavano guardando in questi giorni, cioè le immagini che arrivavano dall'isola del Giglio e dalla nave da crociera appoggiata su un fianco sugli scogli. Ho dato un occhio alla mail del programma, cosa che non faccio di solito, invece domenica l'ho fatta, forse perché avevo del buon tempo, e ho trovato un racconto, una storia che mi è arrivata esattamente da là. Più tardi ve la leggerò tutta. L'ho già anche pubblicata sul profilo Facebook del programma, che è Matteo Caccia, io sono qui. È una bella storia che arriva da quel posto in un momento in cui tutti stanno parlando di quello che è successo, semplicemente vista da un'angolazione un po' particolare. Voi siete qui, @radio24.it, oppure 349-238-6666, perché in realtà oggi si parla della storia di Maria Luisa, che è partita per andare a Praga nel 1976 e c'è stato un piccolo intoppo nel suo viaggio, e quell'intoppo le ha permesso di scoprire cose che non avrebbe scoperto altrimenti. E questa puntata è dedicata a quella, e un po' a quella cosa, e anche un po' la mail che è arrivata domenica, che vi leggerò più tardi, a firma Michele, 13 anni, un pochettino parla di quella cosa lì. Elisa mi ha già scritto: c'è stato un periodo della mia vita in cui ho viaggiato tantissimo in treno. Grazie ai ritardi e alle inefficienze di Trenitalia ho conosciuto delle persone davvero interessanti, tra cui ricordo chiaramente una ragazza che lavorava nell'esercito italiano, un ragazzo di nome Claudio, che successivamente ho cercato molto a lungo, delle signore che per l'ora di viaggio che abbiamo condiviso mi hanno adottato come se fossi una figlia. Barbara ancora: aeroporto chiuso, causa eruzione vulcanica. Beh, questa è un'altra roba di cui ci si ricorda. Transfer in pullman, scassato, ad un aeroporto militare a 3 ore da lì, e bivacco di qualche ora. Il tempo di vedere le crepe sulla pista e l'erba che ci spuntava, e di commentarle con anziani signori ed emigranti senza visto che l'avevano fatta franca nel caos totale. Accanto a me due signore che volavano per la prima volta, tutte eleganti e pettinatissime. Andavano a trovare il figlio di una delle due in Svezia. Erano terrorizzate, hanno pregato per tutto, sottolineato tutto il tempo, sgranando un rosario e stupendosi che io non facessi altrettanto. 349-238-6666. A me accadde una cosa simile, però per l'eruzione dell'Etna. Andavo a Catania e invece che un Milano-Catania diretto fece Milano-Palermo in aereo, poi autobus da Palermo, con protesta di Termini Imerese in autostrada. Autostrada bloccata, partito alle 9 da Milano, sono arrivato alle 8 a Catania. Non grandi incontri, però, a quell'epoca. Invece è una storia particolare quella di Maria Luisa, che parte nel 1976 e arriva fino ad oggi. ...1976... Avevo chiesto al Ministero degli Esteri una borsa di studio per Praga per fare ricerche sulla letteratura cinese degli anni 30, argomento della mia tesi di laurea. Chiedi almeno 8 mesi, mi aveva suggerito il professore di letteratura cinese, che te ne daranno al massimo 2. Ovviamente me ne dettero 8. Partì in treno, 23enne, con 2 valigie piene di libri e vocabolari cinesi e inglese, per Praga, che quasi non sapevo dove si trovasse. Avevo avuto la borsa di studio per compiere ricerche all'Istituto Orientale, che ospitava un'invidiabile biblioteca con libri ed opere degli scrittori cinesi delle prime decadi del XX secolo, raccolti da un famoso sinologo cieco. Eri iscritta all'Università di Venezia, l'orientale di Venezia, studiavo cinese come prima lingua. Avevo sostenuto degli esami di cinese moderno, oltre che cinese classico, e avevo scelto proprio questo periodo, mi piaceva gli anni 30 in Cina, era un periodo molto particolare. Partì in treno alle 11 di sera e la mattina dopo a Vienna avrei cambiato per Praga. Non avevo però fatto i conti con il terremoto di quell'anno in Friuli. Il treno Venezia-Vienna aveva dovuto deviare il percorso e mi trovai nella capitale austriaca con notevole ritardo. In treno una coppia mi aveva regalato un bigliettino della metropolitana e in inglese aveva cercato di spiegarmi che dovevo cambiare stazione per il treno per Praga. Io scesi tutta fretta. Odiavo quelle valigie piene di libri che cercavo di trascinare. Le avrei volentieri lasciate sotto una pensilina, ma erano la prova di tutte le mie fatiche di studentessa. Non so che santo mi aiutò, o almeno cercò di aiutarmi. Arrivai alla stazione solo per vedere la coda del treno per Praga che se ne andava, il capostazione che fischiava con il braccio alzato e la sua inesorabile paletta. Buttarsi a terra e piangere forse era una soluzione comprensibile, ma ne andava del mio orgoglio. Forse telefonare a casa e chiedere che qualcuno mi accompagnasse, o almeno che qualcuno mi dicesse che cosa fare, ma lì ne andava della mia caparbietà. L'unica cosa era informarsi del prossimo treno per la Cecoslovacchia. Il prossimo treno era dopo 24 ore. Ciò voleva dire un'intera giornata a Vienna senza sapere dove andare e che fare. Ok, raccogliamo le forze e i pensieri, ricacciamo le lacrime e qualche idea verrà fuori. Dunque, prima di tutto dovevo liberarmi delle valigie, così le lasciai ai depositi bagagli. Libera da ogni faticoso impedimento, potevo pensare. E dove potevo pensare meglio che nella hall dell'hotel Hilton, di fronte alla stazione. Assunsi una faccia sfrontata. Non apparteneva al mio carattere, ma era questione di vita o di morte. Rimasi seduta in una comoda poltrona davanti al bancone del front office, con gli sguardi interrogativi dei receptionist, a guardare la gente che passava. D'altra parte, cosa potevo fare? Ecco, forse potevo chiedere informazioni all'ambasciata italiana. Questa era una buona idea. Uscii con tutto il contegno che un Hilton poteva richiedere. Il ragazzo alla porta chiamò un taxi e io ad alta voce indicai «The Italian Embassy, please». Chi poteva immaginare che l'addetto all'ambasciata, nonostante la mia voce quasi rotta dal pianto e dalla disperazione, mi rispondesse «Signorina, torni alla stazione. C'è un ufficio che si occupa di studenti in viaggio. Mi spiace, ma è venerdì, ma non posso fare niente per lei». Io ci sono stata dopo con la mia famiglia parecchi anni dopo, certo in una visita ho visto veramente Vienna com'era, ecco, quindi la bellezza della città l'ho conosciuta dopo. Trovai una signora gentile che mi dette l'indirizzo di un ostello che guarda caso era dall'altra parte della città. Non serve dire che di Vienna di quel giorno non vidi niente, e niente rimase delle sue bellezze nella mia mente demoralizzata. Quella notte non riuscii a dormire per la paura di non svegliarmi la mattina dopo e perdere nuovamente il treno. La sveglia era rimasta in valigia nel deposito bagagli della stazione. Il santo che doveva proteggermi però alla fine si era mossa con passione. Mi svegliai in tempo per fare una buona colazione e raggiungere il treno. Il capostazione fischiò ed alzò la paletta, ma questa volta ero seduta in uno scomodo scompartimento. Dopo qualche ora lasciai l'Austria e la Cecoslovacchia si annunciò con sterminati boschi di betulle. Ero felice, chissà cosa mi aspettava. Praga, 1976. Ciò che mi incuriosì subito alla stazione furono i soldati russi, con le stelle rosse sulle mostrine. Ero a Praga, finalmente. Surrounded by strangers, their sounds and their changes. Ogni volta che si perde una coincidenza, il mondo sembra crollare. È che noi abbiamo calcolato tutto: gli orari, lo spazio da percorrere in aeroporto o in stazione e il tempo che è necessario per farlo. Poi qualcosa che spesso non dipende da noi va storto. Di solito è un banale ritardo e all'improvviso la vita cambia. Tutto esce di sesto. Sembra il caos totale. E poco importa che questo stravolgimento duri 2 ore, 10 o un giorno. Quando il tuo aereo o il tuo treno è partito senza di te, ti si spalanca davanti l'abisso. Mi è capitata una cosa simile qualche anno fa, negli Stati Uniti. Era inverno e nevicava. L'aereo che doveva partire da New York per Milano fece scalo inaspettatamente a Miami per un giorno intero. E quello che all'inizio mi sembrava una catastrofe si trasformò in un enorme regalo. Apro gli occhi. La gente sta camminando in fila nel corridoio verso l'uscita dell'aereo. Guardo l'orologio. Il volo è durato poco più di 2 ore e io ho dormito tutto il tempo. Mi infilo il cappotto, recupero sciarpa, guanti e cappello, saluto la hostess e mi accodo verso l'uscita. Mentre sono fermo, in piedi, comincio ad avere caldo. Mi manca l'aria e sudo come un salame sott'olio. Penso che mi stia venendo l'influenza. Poi invece mi basta affacciarmi alle scale che fanno scendere dall'aereo per capire che non sono io ad avere le caldane e che qui è estate. Un addetto dell'aeroporto in maglietta e pantaloncini vede il mio cappotto di lana e sorride. Io comincio a togliermi tutto quello che ho addosso, fino a che non rimango in camicia. Ho lasciato New York bloccata dalla neve ed ora sono sotto un sole caldo che mi sta sciogliendo. Recupero il mio bagaglio, esco in questa città che nemmeno sapevo esistesse, si trova da qualche parte a sud di New York. Ho la sensazione però che manchi qualcosa. È come se mancasse la musica, ecco cosa. Manca solo la musica in sottofondo e poi sembrerebbe di stare in un telefilm in questa città. Anzi, nemmeno in un telefilm, nella sigla di un telefilm, in cui tutto quello che accade nel momento giusto e per il giusto lasso di tempo, non di più, non di meno. La ragazza in bikini passeggia sul marciapiede, passa davanti a un'auto sportiva, gialla. Dall'auto scende un tizio muscoloso che attraversa la strada ed entra in un edificio tutto vetri di 30 piani, dove si riflettono la spiaggia bianca e il mare cristallino della Florida. Ecco, e qui i titoli di testa. Io intanto arrivo alla spiaggia, cammino verso il mare, su questa sabbia bianca che abbaglia. Intorno ci sono solo palme e capanni di legno chiaro, dove uomini in costume rosso scrutano le onde alla ricerca di chissà cosa. E anche loro, ovviamente, sembrano usciti da un telefilm. Mi tolgo le scarpe e rimango a piedi nudi. Me ne sto immobile a godermi questa sensazione. Appoggio i piedi, sento un leggero solletico intorno alla pianta e sul collo del piede che prima sprofonda e poi si assesta per bene nella sabbia calda. Mi sento piantato a terra ma leggerissimo. Mi metto a camminare di nuovo verso il mare. Ho una spinta nei piedi che non trattengo e comincio a correre. E corro verso l'acqua e le onde bianche e lunghe quanto tutta questa spiaggia infinita. Senza fermarmi mi sfilo la maglietta, saltellando da un piede all'altro mi tolgo i pantaloncini e corro. Corro verso l'oceano, verso un bagno in mare che sembra il primo. Pesto sabbia bagnata, faccio 3 falcate, l'acqua mi arriva alle ginocchia. Unisco le mani sopra la testa e mi butto. È che ci sono cose che non ti aspetti, che non avevi previsto, non dipendono da te. Quando queste cose arrivano così all'improvviso, ti colgono talmente di sorpresa che scoprono una parte di te che non conoscevi. E alla fine, quegli imprevisti lì, ti tocca anche ringraziarli. Perché senza di loro saresti un po' meno ricco. You make a plan, carve it into stone, like a feather falling, it is still unknown. Until the twist like sheets, till you fall asleep, and they finally unwind. It's a black balloon, it's a dream you'll soon deny. Ecco che poi quando sento e leggo racconti come quelli di Maria Luisa, io so che cosa è accaduto in quel racconto lì, però poi mi viene una curiosità feroce di sapere cosa è successo soprattutto dopo rispetto a quanto era successo prima. E quindi lo chiedo direttamente a lei. Pronto Maria Luisa? Pronto. Ciao, come stai? Bene, bene, grazie Matteo. Grazie a te per essere qui e per il racconto, come al grazie. Solito. Dove ti trovi in questo momento, Maria? A casa o a scuola? No, in questo momento sono a scuola, ho ritagliato un po' di tempo giusto per rispondere alle tue domande. Ma senti, perché che scuola, non, semplicemente cos'è, un liceo, una scuola superiore, una scuola... No, è un professionale, è un alberghiero. E quindi avete lezione fino a tardi, nel pomeriggio? Io ho gli scrutini oggi pomeriggio, per questo mi sono fermata. Perché certo, gennaio ci sono, cioè, finisce il quadrimestre. Certo, noi abbiamo il quadrimestre, finisce il 23 dicembre, e poi appena rientrati abbiamo tutti gli scrutini. E quindi adesso ci sono i voti. Scusa un attimo, le pagelle sono, hanno i voti come una volta? No, sono cambiati, vero? Adesso i voti? No, i voti sono dall'1 diciamo al 10. Ah, ok. Esatto, con dei commenti semplicemente, oppure neanche quelli? No, ci sono soltanto i voti, soltanto che sono tutte le pagelle elettroniche, non ci sono più le pagelle di carta. Quindi arrivano via mail? Come una volta. Sì, vengono stampate e poi consegnate ai ragazzi, agli alunni. Tu che cosa insegni, preside? Maria Luisa, scusami? Come? Cosa insegni? Io insegno inglese. Ai ragazzi, ho fatto lingue. Certo, ai ragazzi di quale classe? O ne prendi una e la porti fino alla fine? Diciamo, io ho varie classi, perché un alberghiero ha anche vari indirizzi, e diciamo a chi studia cucina, sala, ricevimento. Ma quindi, quindi ho dalla prima alla quinta. Ma quindi, scusa, poi andiamo alla tua storia, però non sono mai stato in un istituto alberghiero, ma però ci sono, immagino, proprio le cucine dove preparare la roba. Sì. Cioè, noi come se fosse un albergo. È un albergo, esatto. Diciamo che noi abbiamo addirittura i laboratori di cucina, abbiamo 3 cucine, quelle per le prime classi, le seconde e le terze. Quella è proprio una cucina professionale con tutte le attrezzature. Sì, ma si può venire a vedere una volta, così per curiosità? Porto come Bonini, no? Io e Bonini un giorno veniamo a vedere un... Sei mai stato in un istituto alberghiero? Manco io. Va bene, Maria Luisa, andiamo al 1976. Al 1976, andiamo a Praga. La mia avventura a Praga. Senti, che cosa ti ricordi? Oltre, vabbè, tu ci racconti praticamente il tuo arrivo in treno a Praga e dici la cosa che mi ricordo di più erano i militari sovietici con il cappello. E poi invece in quegli 8 mesi cosa ti è successo? Cosa ti è rimasto più impresso di quella permanenza in quella città? Beh, diciamo, Praga non è la Praga di adesso, perché l'immagine che io ho, diciamo, è una Praga quasi kafkiana. E i palazzi erano piuttosto scuri un pochino, perché d'inverno poi il riscaldamento andava a carbone, e cioè una Praga molto bella, un'atmosfera molto particolare, io l'ho amata tantissimo. Ci sei tornata di recente? Devo nel dire. Senso che vedi delle differenze forti, quindi? Io ci sono tornata dopo vari anni, diciamo che è stato il 76 un periodo un pochino particolare, ecco. Ma non pericoloso però, oppure tu hai corso dei rischi? Ma io ho corso dei rischi, no, diciamo che si era molto sorvegliati come nei paesi, diciamo, dell'est, del blocco sovietico, non è che fosse facile. Ma ad esempio in che cosa eri sorvegliata? Sono le lettere che ti aprivano le lettere? Sì, diciamo la censura, poi io studiavo cinese. E quindi, diciamo, ero abbastanza controllata. Cioè, di chi è questa che arriva dall'Italia, viene qua e studia cinese? Io sì, studiavo già cinese perché avevo scelto lingua orientale all'Università di Venezia, il cinese. Non mi ricordo perché in quegli anni, perché la Cina poi si era aperta dopo la banda dei quattro nel 75. E la prima volta che è andata in Cina era nel 77. A Praga invece c'era una biblioteca, e spero ci sia tuttora, l'Istituto Orientale. Che è il motivo per cui ci andasti, giusto? È il motivo per cui io avevo chiesto una borsa di studio. E quindi alla fine facesti una tesi? Su un poeta sconosciutissimo di Shanghai degli anni 30. Che si chiama? Zhang Guanzi. E come si chiama? Mi dici il titolo della tesi invece, vero e proprio? Il titolo era Zhang Guanzi, un contributo, se ben ricordo perché poi tutto non me la ricordo, un contributo al dibattito culturale degli anni 20 in Cina. Che meraviglia, guarda, solo a sentirla mi sembra una cosa che, cioè, comunque chi l'ha letta quantomeno si è divertito. Senti, adesso devo salutarti purtroppo, Maria Luisa, però mi dici un'altra cosa che ti ricordi di quella Praga là, quella del 76? Della Praga del 76, vabbè, io avevo fatto autunno, inverno, la neve, ovviamente io l'ho amata, e questo un po' questa atmosfera di controllo, ecco, a cui io non ero abituata e che mi ha fatto un po' impressione. Maria Luisa, ti ringrazio moltissimo per la chiacchierata e soprattutto per il tuo tono pacato da insegnante. Grazie mille. Sì. Grazie ancora. Grazie, arrivederci. Ciao, buona giornata. Grazie. Siete siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. La pagina di Voi siete qui, radio24.it. Trovate come al solito le illustrazioni curate, cioè fatte, direi, dagli studenti del secondo e terzo anno del corso di illustrazione dello IED di Milano. Oggi sono, per l'esattezza, Marica Rosa Sorangelo e Irene Pezzotti. E sono entrambe molto belle. Vabbè, qua nascerà la polemica del che sì, sono belle molto. Non è parte che non è vero che ho detto che erano sempre belle. Mi ricordo almeno una volta in cui non l'ho detto. La prima illustra le gambe di una ragazza con una gonna abbastanza corta. Sullo sfondo c'è una mappa dell'Europa, da cui si è segnata Vienna, degli ideogrammi cinesi, direi, e delle valigie. La seconda invece ha qualcosa di più che sembra un sogno. Quella notte non riuscii a dormire per la paura di non svegliarmi la mattina dopo. C'è una sveglia, anche qui ideogrammi cinesi, e il volto quasi sconvolto e bellissimo di una ragazza. Però andate sul sito di Radio 24, andate alla pagina di Voi siete qui, e oltre a queste illustrazioni, cliccate sulla mappa e andate al racconto di oggi. Basta scorrere, perché sono in ordine, dal primo all'ultimo. Quello di oggi, quello di Maria Luisa, ha il solito estratto della sua storia e poi ha la foto. Maria Luisa, secondo me Maria Luisa si è scattata questa foto apposta in una stazione, ha su un, come si chiamano quei giubbotti che hanno il pelo? Un parka, giusto? E è incredibile. Guarda, se non me l'avessero detto che era una professoressa, io avrei detto fa o la maestra o la professoressa. 349-238-6666, oppure il profilo Facebook del programma, che è Matteo Caccia, io sono qui. 349-238-6666. E poi ci siamo arrivati, ve ne ho parlato già prima in apertura del programma, e quelli che frequentano il profilo Facebook di questo programma e mio devono averlo già visto probabilmente, perché l'ho pubblicata in forma di nota. Ma è arrivato all'indirizzo Voi siete qui @radio24.it una mail che aveva come indirizzo mail, sapete quei nomi strani che di solito li danno più i ragazzini, più quelli giovani, gli altri dopo i 20 in avanti dai nome.cognome@gmail, invece era abbastanza incomprensibile. È arrivata domenica pomeriggio questa mail. Io di solito non guardo le mail del programma la domenica, e invece ero lì che aspettavo le 8:45 della sera e ho fatto un giro su quelle mail. E ho trovato questo racconto. Questo racconto è inviato da un ragazzino, così è firmato, di credo 13 anni, mi pare, che vive all'Isola del Giglio. È una storia che parla dall'interno della storia che voi state sentendo da due giorni a questa parte, quella della nave da crociera Concordia che è naufragata proprio di fronte all'Isola del Giglio. Io ho anche scritto questo indirizzo mail, però nessuno mi ha risposto. Io ho deciso di leggerla comunque, perché è una piccola bella storia che racconta da un punto di vista diverso quello che sta succedendo. Quello che sta succedendo lo sapete tutti, perché l'avete sentito qui con dei GR in questa radio, l'avete letto sui giornali e l'avete visto ai telegiornali. Questo è un piccolo scampolo visto dall'interno di quell'isola. Quando mi sono svegliato, mia mamma era già in strada. Io ero andato a letto presto, perché il giorno dopo avevo l'interrogazione di scienze e poi al pomeriggio la partita di calcio contro il San Vincenzo. Mi sono svegliato perché ho sentito un sacco di gente che parlava per le strade e una sirena in lontananza. Sono sceso. Mio papà non era in salotto, dove di solito si mette a guardare la TV. E mia mamma è entrata dicendomi che una nave stava affondando davanti all'isola. Mi sono infilato il giubbotto, sono uscito e sono andato al porto. C'era una grande nave piegata e appoggiata agli scogli. Era enorme e illuminata. Tutta la gente del paese era in strada. Sembrava la festa del paese. I pescatori hanno preso le barche e sono andati verso quella grande nave rotta. La mamma era sconvolta, le persone intorno anche. Ma mi sembrava che tutti fossero soprattutto sorpresi da quella cosa. Come se fosse una novità. Una cosa che non si era mai vista qui all'Isola del Giglio. Io ero felicissimo che c'era tutto quel trambusto e che la mamma non mi obbligava ad andare a dormire. Il papà è salito sul gommone con altri amici ed è andato pure lui verso la nave. Dopo mezz'ora hanno cominciato ad arrivare le barche arancioni. Erano piene di gente. Tutti gli andavano incontro per dargli una mano a scendere. Erano spaventati, piangevano. Qualcuno era arrabbiato, anche se non ho capito bene contro chi. Era chiaro che arrivavano dalla nave rotta, ma solo quando il vigile del paese ha detto che erano dei naufraghi ho capito che era una cosa importante e triste. Qualcuno ha cominciato a portare coperte, piumini e giubbotti al porto. Io sono corso a casa e ho preso tutto quello che poteva servire a delle persone che erano al freddo e non avevano niente da mettersi. Quando sono tornato sul molo c'era un ammasso di salvagenti arancioni e l'isola si era svegliata. Hanno aperto gli alberghi che erano tutti chiusi. Il supermercatino ha aperto e anche la farmacia e il negozio di vestiti in piazza hanno aperto. Il prete ha detto di portare i naufraghi in chiesa e anche le scuole che non avevo mai visto aperte di notte erano tutte illuminate. La mamma era insieme a 3 persone. Erano un signore, una signora e un bambino. Li abbiamo fatti venire a casa nostra mentre i vicini accompagnavano un signore e una signora anziana a casa loro. Manuel si chiama il bambino che ha dormito in camera con me stanotte. È di Torino, ha 3 anni più di me. Fa la seconda superiore ed era in viaggio con i suoi genitori per fare una crociera. Abbiamo parlato tutta la notte perché lui era sveglissimo e io anche. A un certo punto mi sono alzato per andare a prendere della Nutella da mangiare, anche se avevo paura che mia mamma mi sgridasse. Ma quando sono sceso, lei e papà erano svegli e mi hanno abbracciato. Con Manuel siamo diventati subito amici. Mi ha detto che gioca a calcio pure lui, anche se è attaccante e io difensore. Mi ha detto di non fare il liceo classico, che il greco è difficilissimo, e che la Juve è più forte di Inter e Milan e quest'anno vincerà lo scudetto. Poi mi ha detto anche un segreto, che però non posso dire, perché i segreti non si dicono, soprattutto quando sono quelli degli amici veri, come me e lui. Quando ci siamo addormentati, stava già diventando chiaro. Abbiamo dormito 1 ora, ma non eravamo stanchi poi. Gli ho preparato io la colazione, a lui e ai suoi. Alla fine hanno preso il traghetto per Livorno e ci siamo salutati, ma abbiamo già deciso che andò a trovarlo a Torino e lui, quest'estate, verrà a trovarmi qui. Alla fine, anche se la nave è ancora rotta davanti al porto, è stato bello, perché ho un nuovo amico e sabato non sono andato a scuola. Michele, Giglio Porto, 14 gennaio 2012. (349) 238 6666 oppure voi siete qui @radio24.it. C'è anche un profilo Facebook. Se volete rileggervi questo racconto, questa lettera che mi è arrivata ieri all'indirizzo del programma, lo trovate sotto forma di insomma è più complicato spiegarlo. Andate sul profilo Facebook Matteo Caccia, io sono qui e la trovate. È arrivato un altro messaggio, faccio in tempo a leggerlo. È un messaggio di Anna. Mi è successo praticamente di tutto nel tentativo di tornare a casa da un concerto. Foo Fighter, alcuni anni fa. Esistono ancora i Foo Fighter? Sì. La mia amica migliore vince tramite un concorso un incontro con il gruppo. Ah, un incontro di quelli che li conosci dietro le quinte. Io non posso entrare e l'aspetto nel Palamazda mezzo vuoto, al freddo, circondata dagli addetti che continuano a offrirmi birra e mi fanno struggenti dichiarazioni d'amore. Bevo per dimenticare. Lei torna che è quasi luna. Naturalmente abbiamo perso il treno di ritorno da una vita ormai. Uno degli operai del forum si offre di accompagnarci verso la stazione e mentre guida si dà alla megalomania, sostiene di essere amico intimo praticamente di chiunque, da Mandela a Bob Dylan fino a Donatella Rettore. D'altronde è ubriaco. Alla fine arriviamo in un albergo che lui sostiene essere carino, in zona stazione centrale. Appena entrate ci sembra di essere in The Hostel, la luce non funziona, non c'è riscaldamento, le coperte sembrano fatte di carta scoppiettina, il lavandino troneggia tra i 2 letti come un'opera dadaista, ma non va. Il lavandino non va. E l'arredamento sembra risalire ai tempi di Garibaldi. Passiamo la notte a fare ipotesi su come riscaldarci e a evocare i vecchi tempi. Beh, è stata la più orribile e la più divertente notte della mia vita. E questo tu pensa probabilmente grazie a un operaio ubriaco del Palamazda che è stato, alla fine è stato pure carino con voi. Grazie a quelli che hanno reso possibile anche la puntata di oggi, che sono Tiziano Bonini, Margherita Ina e Paolino Corleoni, come al solito. La storia di oggi era la storia di Maria Luisa e parlava di contrattempi durante un viaggio. Quella di domani, invece, è la storia di Roberto e parla di ascese e di cadute. In 3 anni gli 11 rimasero in 3, come scherzavamo sempre. Io, Diana e Sara. Eravamo il numero perfetto. Io mi sentivo padrone del mondo, o almeno del mio mondo. Avevo davvero la mia vita fra le mani. Ero dimagrito di 45 kg, ero giovane, avevo un lavoro che mi piaceva e delle persone a cui piacevo, io e quello che facevo.